Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di Radiobook, il programma del blog di scrittori della Porta Accanto, in collaborazione con Radio Big World. Io sono Giulia Mastrantoni e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Abbiamo parlato della velista più giovane al mondo, di Oceania e di libri in qualche modo legati al tema del mare. Oggi è arrivato il momento di parlare di misteri e di leggende tutte italiane. E poi anche un pochino di San Valentino, ma non inorridite, prometto di non essere melenza. Inizio con raccontarvi una storia. In un editoriale del nostro blog, l'autrice e blogger Silvia Battarini ha parlato di una leggenda metropolitana milanese, di cui io, essendo nata vicino a Roma, non ero a conoscenza. Si parla di una donna bellissima che cerca l'amore. Questa figura è priva di cuore e di sentimenti e trascinerà il suo amante nella più totale e cupa disperazione, fino al limite della follia. La protagonista è la Dama Velata, una donna misteriosa, un fantasma probabilmente. Una figura che, nelle nebbiose sere d'inverno, è solita girarsi nel parco di Castello Sforzesco. È sola e inconsolabile, avvolta nel suo abito nero lungo fino ai piedi e con il volto coperto da un velo nero. Si aggira tra gli alberi alla ricerca di un uomo che le faccia compagnia, e quando incontra qualcuno di suo gusto, la dama gli appare davanti all'improvviso, avvolta da una nuvola al profumo di violette. Il suo fascino è irresistibile, porge la mano gelida all'uomo e non proferisce parola. Lo conduce attraverso sentieri sconosciuti dentro una nebbia sempre più fitta, e poi raggiunge il cancello di una sontuosa villa. Lui è ammaliato. Lei è carismatica e gioca sul fatto che lui è inconsapevole di ciò a cui andrà incontro. La dama misteriosa afferra poi una vecchia chiave arrugginita e apre il cancello. Accompagna il suo ospite all'interno della villa e lo porta in salotto. L'ambiente è illuminato da candele. Si vedono le pareti addobbate al lutto e poi una musica innaturale proviene da un'orchestra nell'angolo. I due iniziano a ballare. L'uomo è ipnotizzato, completamente in balia del volere della dama. Dopo diverse ore l'uomo viene condotto dalla dama in un letto a baldacchino. Lei si spoglia, ma senza mai togliersi il velo, e poi gli si concede. Quando l'uomo prova a togliere il velo, diverse ore dopo, ha una spiacevole sorpresa. Infatti, sotto il velo nero, c'è un teschio con due orbite vuote, che lo fissa negli occhi. A quella macabra e inquietante scoperta l'uomo fugge via spaventato, senza che la dama cerchi di ostacolarlo. Infatti la donna è consapevole che l'uomo tornerà sempre e comunque a cercarla. L'uomo entra dal panico e alla disperazione, ripercorre il vialetto e fugge via, si dilegua. Ma la leggenda racconta che tutti gli uomini che hanno incontrato la dama velata o la dama nera perdono il senno, conoscono un amore così forte che li porta alla pazzia, brancolano per il resto della loro vita nei pressi del parco e cercano ancora la villa, ma non la trovano. Sembra che sul finire dell'Ottocento numerose furono le testimonianze di uomini che avrebbero incontrato la dama nera, al punto che si decise di battere a tappeto il parco per scovare la dama, ma invano. Nessuno si è mai preoccupato di capire l'eterna sofferenza e la solitudine di questo fantasma, alla perenne ricerca di un compagno. Non si sa chi fosse quando era viva, ma si sa che era davvero bella. Viveva al castello, probabilmente, o magari era innamorata. L'unico dato certo è che è vestita elegantemente, nel suo abito nero profumato di violetta. È una leggenda romantica e inquietante, che si rispecchia nel concetto di amore liquido descritto da Bauman nel nostro secolo. Similmente la Dama Bianca, una leggenda goriziana dalle radici germaniche, narra la storia di quello che potrebbe essere il fantasma della contessa Caterina. Dopo la morte di suo marito, il conte Enrico, Caterina, che era nota per essere una donna sanguinaria e avida, si ritirò a una vita solitaria nel castello di Duino, insieme ai suoi quattro mastini e al servo Giuseppe. Si narrava che Caterina avesse nascosto nelle gallerie al di sotto del castello il tesoro del marito, un uomo favolosamente ricco. Una notte un cavaliere bussò alla porta del castello e chiese ospitalità. Caterina gliela concesse, perché notò che, al lato della sua divisa, l'uomo aveva un sacchetto pieno di denaro. La speranza di Caterina era di rubare i suoi averi al cavaliere e di ucciderlo durante la notte. Riuscì nel suo intento, ma pochi giorni dopo Giuseppe trovò il cadavere di Caterina, morta in circostanze misteriose nel suo letto. Decise di non seppellirlo, e da allora il fantasma della donna si aggira nelle gallerie dove aveva nascosto il tesoro. Alcuni dicono che Giuseppe lo rubò e fuggì, altri sostengono che le ricchezze siano state portate via dal diavolo. Altri ancora dicono che Caterina piange accanto al suo tesoro, sola, ricca ma dimenticata da tutti. Ti è venuta un po' la pelle d'oca? A me è venuta la prima volta che ho ascoltato la leggenda della Dama Bianca. Quindi, per passare a una nota più spensierata, vi racconto quello che l'autrice Valentina Gerini ha scritto in un editoriale del nostro blog a proposito di San Valentino, che si avvicina. Si tratta di una curiosità riguardante questa festa che accade nella cittadina di Loveland, in Colorado. Loveland è immersa nel verde delle montagne, a paesaggi mozzafiato e un buon viavai di turisti. È stata definita anche uno dei migliori posti in cui vivere dal Money Magazine e da USA Today. Nel 1947 Loveland è diventata la residenza simbolo di Cupido. Perché in quel paese di circa 50.000 abitanti accade qualcosa di insolito ogni anno. Circa 2 settimane prima di San Valentino, l'ufficio postale di Loveland riceve più di 300.000 biglietti di San Valentino da tutto il mondo. L'ufficio sigla tutti questi biglietti con un timbro appositamente creato e poi rispedisce la lettera al destinatario. L'ufficio postale dedicato ai biglietti garantisce che una volta ricevute, le lettere saranno rimosse dalla busta indirizzata all'ufficio postale di Loveland, timbrate con il timbro speciale di San Valentino e poi inviate al destinatario. Per essere sicuri di poter usufruire del servizio in tempo per San Valentino, però, ogni anno l'ufficio pubblica sul suo sito ufficiale le scadenze massime per la ricezione delle lettere. Questo per permettere, ovviamente, agli addetti di compiere il lavoro di timbratura e di invio in tempo per il 14 febbraio. Immaginate la faccia del vostro innamorato o della vostra innamorata se leggendo il mittente della lettera notasse il timbro dell'ufficio postale della città dell'amore in Colorado. Per concludere, come ogni settimana, anche oggi vorrei leggervi qualcosa dei nostri scrittori emergenti legato al tema della puntata. Il tesoro dentro di Elena Genero Santoro parla di un amore e di un mistero tutto torinesi e si sposa perfettamente con l'idea misteriosa della dama bianca e della dama nera e con il nostro piccolo aneddoto di San Valentino. Storia di Torino? Che tipo di storia? Le interessava qualcosa inerente l'urbanistica o la sociologia? O la mera cronaca degli avvenimenti del passato? Anna si sorprese a rispondere. Non si aspettava un cliente con esigenze così complicate quel giorno. Ma mi interessa qualunque cosa, mi faccio vedere quello che ha. Tanto volevo analizzare la questione da molte sfaccettature, per cui diciamo che in prima battuta mi va bene tutto. Però non mi dispiacerebbe fare un'analisi urbanistica della città e del suo sviluppo, dal primo impianto romano. Ottimo! Anna gli voltò le spalle e si addentrò tra gli scaffali. Non poté fare a meno di domandarsi se l'avventore avesse scambiato il suo locale per una biblioteca. Possibile. Magari nel posto da cui quell'uomo proveniva non vi era alcuna differenza tra le due cose. Dopo pochi minuti tornò. Per ora c'è questo. Però se è interessato all'acquisto, e sottolineo la parola acquisto, posso tentare di procurarmi qualcosa di più specifico. L'avverto. Non si tratta di testi di semplice o agevole lettura. Questo è un resoconto sul commercio a fine 800. Questo riguarda l'espansione urbanistica oltre Porta Susa. E questo racconta la storia della Fiat all'inizio del XX secolo. Insomma, sono tutti argomenti slegati. Se deve fare un lavoro di ricerca di ampio respiro, magari le conviene andare. Non lo so, in qualche biblioteca o all'archivio storico. Oppure c'è la Biblioteca Nazionale in Piazza Carlo Alberto. Insomma, lì avrebbe a disposizione tutti i libri del mondo. E sarebbero gratis, assolutamente gratis. Ecco, l'aveva detto. Gratis. Al contrario, i suoi pochi volumi si pagavano. Meglio chiarire l'equivoco. Non era certo auspicabile portarlo avanti a lungo. Meglio eliminare subito l'unico cliente nel raggio di miglia, piuttosto che illudersi di poter fare affari. Quello la guardò con aria spaesata, tanto che lei si chiese se avesse compreso ciò che gli aveva appena spiegato. Non mi piacciono molto le biblioteche, non è lì che voglio rinchiudermi. Io voglio vivere questa città in tutti i suoi angoli. Questo posto, per esempio, spiegò il tizio facendo un gesto ampio col braccio. Questo posto è torinese al 100%. Le volte a botte di questo soffitto, questo bancone, questi scaffali. Sarebbe magnifico per me poter scrivere il mio articolo qua. Respirando aria italiana, la stessa aria che respirano tutti gli italiani e i torinesi che frequentano questo locale, e mangiando lo stesso cibo che mangiano gli italiani. Anna lo squadrò con crescente curiosità. La stava prendendo in giro. Eppure l'entusiasmo ingenuo di quel tipo le sembrava quasi genuino. A lei l'arredamento scelto dalla zia nell'ultima ristrutturazione, e che ora non poteva certo permettersi di cambiare, non piaceva. I tavolini, le sedie, il bancone dell'angolo caffetteria erano in stile, diciamo, moderno, chiari, lisci, lineari, in netto contrasto con la vetrina storica in pannelli di legno scuro e gli scaffali riservati ai libri. Una scelta di rottura con il passato che lei non aveva mai condiviso. Eppure la zia aveva pagato profumatamente l'architetto arredatore per fargli sposare in maniera armoniosa i mobili e le sue pellettili. Non si illuda, qui non si vede mai nessuno. Se nel 2015 non succede qualcosa, intendo dire qualcosa di strapositivo che al momento non mi immagino neanche, sarò costretta a chiudere, lo seccò immediatamente. Quando restò lì imbambolato, come se di nuovo non avesse capito, e forse davvero non aveva capito, eppure l'italiano lo parlava bene, accento a parte. Oh, davvero? Che peccato sarebbe. Davvero? Comunque si accomodi, aggiunse Anna, indicando un tavolino e una sedia. Gradisce qualcosa da bere o da mangiare? Un cornetto e un cappuccino? O, non so, data l'ora, attende il pranzo, magari? Cornetto e cappuccino, grazie. Anna allestì un piccolo vassoio mentre il suo cliente accendeva un PC portatile e si sistemava comodamente. Quando lei gli si avvicinò con la colazione, lui si voltò verso di lei e le sorrise. I riflessi dorati dei suoi occhi si illuminarono. Wow, un cappuccino italiano, un croissant italiano, che meraviglia! Anna stava per rispondergli: Bella forza, siamo in Italia. Ovunque ti volti trovi facce italiane, cappuccini italiani, cornetti italiani, paesaggio italiano. E comunque fanno 2,20 euro. Ma si trattenne. Non volle stroncare l'entusiasmo di quel poveretto che pareva tanto onorato e inebriato all'idea di poter respirare aria italiana. Passarono le ore. L'uomo lavorò a lungo e con concentrazione, lesse alcuni paragrafi dei tomi che Anna gli aveva passato e si appuntò qualcosa sul computer. Continuò a scrivere senza più leggere. Non smise nemmeno quando verso mezzogiorno Anna estrasse dalla borsa termica l'insalata. A un certo punto piombò lì Amanda, con la sua solita scortesia, a portare una pila di carte. Fece pesare di aver trascorso l'intero Natale sul calcolo delle tasse e, come sempre, insinuò di essere una lavoratrice sottopagata e sottostimata. Con le sue competenze avrebbe potuto e dovuto aspirare a tutta un'altra gloria. Poi se ne andò sbattendo la porta. Per fortuna non imponeva mai la sua presenza a lungo, anche perché presto o tardi aveva la necessità di accendersi una sigaretta. Prima però lanciò una lunga occhiata di sbieco allo straniero. Quindi sparì, lasciando dietro di sé una nuvola di incenso e tabacco. Il cliente si limitò a squadrarla dalla testa ai piedi, ma non fece trapelare la sua opinione, se ne aveva una. Verso l'ora di chiusura, però, impacchettò le sue cose e si avvicinò alla cassa. Sono stato a mio agio qua da lei oggi. Se non le spiace, torno anche domani a un bar così accogliente. Non era un bar e non era accogliente, pensò Anna, ma evitò di farglielo notare. È silenzioso, ma non freddo. È l'ideale per concentrarsi sulla scrittura, e poi è così italiano. Ari, ecco. Italiano come tutti gli altri locali del circondario e oltre. Comunque domani è domenica e siamo chiusi. Riapriamo lunedì. Ah, giusto. A lunedì allora. Anna concesse un mezzo sorriso. Ha trovato qualche libro di suo interesse? Oh, sì, assolutamente. Tutto interessantissimo. Se me li tiene per lunedì ci darò ancora un'occhiata. Ok, non li aveva quasi letti. E di quel poco che aveva letto ci doveva aver capito meno della metà, forse. Lui non era lì per i tomi, nemmeno per scrivere un articolo. Era lì per vivere il suo sogno italiano, quel che fosse. Forse per tenere un diario di bordo. C'era una bella differenza. Senta, signorina. Anna, mi chiami Anna, se non le dispiace. Anna. Il giovane socchiuse gli occhi, come per assaporare il suo nome. Mi tieni i libri da parte per lunedì? Stai tranquillo, mi sfugge il tuo di nome? Emil. Io sono Emil, disse lui con un sorriso che scopriva appena i denti bianchi e allineati. Si strinsero la mano. Emil, stai sicuro, qui nessuno te li ruba. E se qualcun altro fosse interessato all'acquisto, credimi, ti farei un cenno. Gli affari andavano male a prescindere, tanto valeva essere gentile con l'incolpevole forestiero. Lui le sorrise ancora con uno sfavillio negli occhi. Allora ci vediamo lunedì, aggiunse con un tono di voce basso e vagamente sensuale. Anna annuì e aggiunse. Per quanto riguarda il cornetto e il cappuccino. Ah, giusto, quanto fa? Lascia perdere, offro io. Sul volto di Emil si stampò un sorriso trionfale. Ah, l'ospitalità italiana, non ha veramente uguali. Ora però vado, devo vivere Torino in tutta la sua intensità. Ho ancora mille cose da scoprire. Emil non si vide subito il lunedì, tanto che Anna si convinse che non sarebbe mai arrivato. Ma poi lui fece finalmente la sua comparsa, con il PC sotto braccio, i capelli quasi lunghi e arruffati e un principio di barba. Lei gli consegnò immediatamente i suoi 3 tomi, augurandogli buon lavoro. Mentre lui spulciava, poi si distraeva, poi riprendeva, Anna lo osservava di sottecchi e ripensava alle parole di Paoletta. Magari poteva mettere un banchetto di bigiotteria. Ma dove diavolo avrebbe potuto metterlo? Gli affari andavano risollevati in qualche modo. Avrebbe giovato davvero all'immagine del suo negozio e della bigiotteria. D'altronde molte librerie moderne campavano di gadget più che di libri. E era risaputo. La Mondadori aveva riviste, giocattoli, tazze col nome, di tutto. Era impossibile per un genitore uscire senza acquistare qualcosa al figlio, figurarsi. C'erano persino dei peluche che si riscaldavano mettendoli nel microonde. Che c'entravano coi libri? Nulla, ma erano accattivanti, morbidi, colorati, e vendevano. Come le penne con i pupazzi di Peppa Pig e altri ammenicoli di pseudocartoleria. Dunque, forse l'idea di ampliare la sezione bambini poteva essere un modo come un altro per fare utili. Ma Mondadori non era una libreria storica, e comunque Anna doveva decidersi a tenere qualche bestseller. Sì, un bestseller commerciale per attirare la clientela. La zia Rita si sarebbe rigirata nella tomba, ma lei doveva vivere. Magari in seguito, chissà. Era immersa nei suoi pensieri quando Emilia si avvicinò. Avresti qualcosa da mangiare per il pranzo? Domandò. O è meglio che vada al bar qua vicino? La domanda era legittima. Anna si ridestò dai suoi pensieri. Questa è solo una caffetteria, tengo, non lo so, un paio di panini? Se vuoi qualcosa di più consistente o di più tipico, ti conviene cercarti qualcosa fuori e tornare qua più tardi. Emilia si parò davanti con un sorriso sornione, intanto che si sedeva a cavalcioni su una delle sedie di fronte al bancone. E tu cosa mangi invece? La domanda era impudente, lo era, ma Anna non ci badò. Io di solito mi porto un'insalata, spiegò senza nemmeno alzare la testa. Emil parve quasi deluso, ma poi domandò: E perché non prepari insalate anche per i tuoi clienti? Perché questa è solo una caffetteria, non è un bar, e poi meno clienti ci sono, meno roba è meglio tenere nel banco, perché poi a fine giornata butto via tutto. Anna si fermò un attimo. Alzò la testa e squadrò Emil da cima a fondo, come se lo stesse osservando per la prima volta. Quello straniero scanzonato sembrava venuto dalla luna, e forse poteva essere obiettivo proprio per quello. Dimmi un po', Emil, dammi il tuo parere sincero. Secondo te avrebbe un senso ampliare questa caffetteria, renderla più fornita, magari farla diventare un mini locale di ristorazione? Voglio dire, ha senso investire denaro, tempo, risorse e strutturare tutto diversamente? Potrebbe portarmi più avventori? E mi scrollò le spalle. Secondo me sì, come cliente io mangerei volentieri qualche piatto tipicamente italiano, per esempio le lasagne. Anna scosse la testa. Sì, ma non posso rivoluzionare un'altra volta sto posto, dai, per una persona che prende di assaporare italianità in ogni angolo dello stivale. Oh beh, il sorriso di Emil si spense. Perché me l'hai chiesto allora? Volevo sapere cosa ne pensavi. Non sono un esperto di marketing, però sono il tuo unico cliente, mi sembra, quindi dovresti tenere conto del mio parere. Voi italiani non siete famosi per l'ospitalità? Il cliente non ha sempre ragione? Anna lo guardò negli occhi. Ci era o ci faceva? Ci credeva veramente a quei luoghi comuni sugli italiani? Gli italiani ospitali, gli italiani che mangiano bene, dediti solo al cibo. Ma non si rendeva conto che i cosiddetti italiani erano un popolo in crisi e che persino mangiare era diventato un lusso? Forse strutturare meglio la caffetteria a discapito della libreria avrebbe avuto un senso. Tanto ormai le autorizzazioni le aveva, rifornire il bancone, ma sì, dai, torte per la colazione, inventarsi un menù per il pranzo, ma sì, per gli studenti squattrinati, dai, dai. Qualunque scelta avrebbe avuto un costo comunque, e lei di soldi non è che ne avesse da buttare. Emil, Anna si legò il grembiule dietro la schiena. Posso chiederti da dove vieni? Dalla Danimarca, sorrise lui. Ecco spiegato quell'accento tremendo. E dove hai imparato così bene l'italiano? A Bologna, dove ho studiato per un anno, 15 anni fa. E adesso il mio italiano è parecchio arrugginito, devo dire. No, affatto, ti fai capire benissimo. Usi anche dei termini appropriati, commentò Anna con ammirazione. Io dubito che parlerei il danese altrettanto bene. Ma voi italiani non siete predisposti per le lingue. Da queste parti, tutte le volte che ho parlato in inglese, perché in italiano non ci riuscivo, nessuno mi ha capito. Ho provato col francese, visto che siamo a Torino, ma niente da fare. Col tedesco ho proprio evitato. Anna sbatte le palpebre e posò automaticamente lo straccio che teneva in mano. Scusa, quante lingue conosci? No, niente di che, solo quelle che ti ho detto. Poi un po' di svedese, per noi nordici è normale. Siete voi qua al sud dell'Europa che rimanete chiusi col vostro idioma. Tra gli italiani e gli spagnoli non so chi sia messo peggio. Oh, io vi capisco perché il suono della vostra lingua è stupendo, dolce, musicale, sensuale, l'italiano è sexy. un po' di inglese, cavoli. Da 15 anni a questa parte non è cambiato nulla. Da quando sono arrivato un mese fa, avrò conosciuto una cinquantina di persone, di cui 4 masticavano l'inglese. Le altre 46 non ci capivano niente. Tu parli inglese? Poco, nulla. Ok, 4 su 51. Beh, ma a questo punto sono curiosa. 15 anni fa eri a Bologna per studiare, ma adesso cosa ti ha portato in Italia? Per quanto tempo hai intenzione di restare? Ma poi perché proprio Torino? Anche oggi abbiamo finito con il nostro estratto. Quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate che il libro è Il tesoro dentro, di Elena Genero Santoro. Ciao!